stelle non sapevo che. Oggi canto la mia rabbia, forse c'è qualcuno mi ascolterà. Sembra un aquilone, il tempo sta cambiando tutti i sogni miei. Ci riuscirò.